Noi adesso registreremo, quindi gli amici assenti potranno magari aggiornarsi. Solo due parole e poi dopo lascio il discorso più organico a Piera, che ha più da vicino organizzato questo seminario. Solo due parole per dire che questa riunione di lavoro, questo sabato di lavoro, come noi lo chiamiamo, diciamo, appunto, questa volta per il carnet piuttosto denso, è incominciato il venerdì pomeriggio, ha per l'istituto una particolare importanza che deriva sia dagli amici, e in particolare dal professor Rainer, che ha accettato di venire a tenere la relazione, sia perché rispetto a altri sabati che sono stati direi sempre molto fruttuosi e positivi, questo ha una caratteristica in più, cioè quella di rappresentare un primo tentativo di una impostazione organica di un lavoro che dovrebbe continuare nel tempo per concretare quella che è sempre stata fin dall'inizio una delle linee di movimento dell'istituto, una linea di movimento che ha trovato una sua concretizzazione anche nell'acquisto della biblioteca della Fondazione Italiana per la Storia dell'Amministrativa l'anno scorso, una linea di attenzione che dovrebbe cercare di coagulare le nostre attività, non globalmente, non in modo totalitario, ma con una, appunto, una definizione di una, insieme a altre, linee di movimento intorno, appunto, alle strutture politiche istituzionali nel loro rapporto con il sociale. Questo visto, diciamo, da due lati, ecco, dal lato delle strutture stesse, della crescita delle strutture e degli interventi dello Stato nella prima età moderna nei vari settori, e dall'altro, appunto, lo studio del formarsi, del germogliare dal basso, se vogliamo, creare un'immagine relativa com'è, di un nuovo sistema che appunto si può chiamare social disciplinismo, che si può chiamare come si chiama, ma del modo della formazione, ecco, di un tipo di coesioni che partendo dalla vita quotidiana arrivano a formalizzarsi, a strutturarsi in quei coaguli che poi saranno fondamentali per tutto lo sviluppo della vita politica e sociale dell'Occidente nei secoli successivi. E quindi appunto l'interesse nostro, ma qui Piera appunto parlerà più profondamente, è del tutto particolare per questo seminario. Io voglio solo concludere salutando in particolare i due amici appunto che sono venuti dalla Germania per questo seminario, il professor Arnstein è già stato qui alle nostre settimane di settembre ed è conosciuto da tutti per i suoi studi sul mondo giuridico universitario tedesco, insomma, ecco, quindi su una degli ingranaggi fondamentali per questo tipo di passaggio di cui parliamo oggi, insomma, della prima età moderna, e il professor Rainer, che veramente da anni volevamo conoscere, ecco, di persona, dopo aver seguito la sua direi, enorme produzione rispetto alla giovane età del soggetto che quando l'ho visto stamattina sono anch'io rimasto sorpreso, ecco, dal grosso lavoro in due volumi sul Pax Trinati, il nepotismus, intanto il Paus del Fichte, e sul nepotismo e la finanza papale al tempo di Paolo V, e appunto dopo questo lavoro che conteneva anche una quantità di scavi d'archivio eccetera, negli anni successivi al 74 Rainer è sempre stato ai nostri occhi, ecco, una delle persone da seguire perché ha portato avanti un discorso a mio avviso estremamente tra i più sollecitanti e tra i più fertili, ecco, su questa linea che dicevo prima, con saggi che direi sono tutti in primo luogo direi provocanti, se il professor Rainer me lo permette, insomma. Ecco, dal saggio sul nepotismo come pietà, come espressione, ecco, della pietà, al saggio sulla di tipo, diciamo così, prosopografico, sulla formazione, la carriera curiale, sugli intrecci appunto che si venivano costruendo nel mondo della curia romana, sul problema per esempio della provenienza sociale, eccetera, dei cardinali dell'età moderna, dei papi stessi, un articolo appunto molto recente sulla carriera dei papi, sulle promozioni cardinaliste, eccetera, cioè proprio tutta una serie di studi estremamente interessanti e stimolanti, e allargando poi il suo discorso a tematiche che investono i principali nodi di quest'epoca, come l'articolo sulla formazione ad modernisierung, che due anni fa abbiamo fotocopiato e trasmesso e credo digerito e discusso tutti quanti. Ne abbiamo parlato a lungo tra di noi e soprattutto per distinguere i contenuti. E proprio direi da questo punto di vista, insomma, la sua presenza qui, diciamo così, non rappresenta una novità, ma direi il complimento, e così una prima fase di discorso che appunto in questo contatto personale noi speriamo trovi un impulso per un ulteriore sviluppo. In genere non parlo mai, oggi mi sono messo a parlare un po' più del necessario, ma credo che veramente fosse necessario. Adesso allora continua il discorso con la presentazione vera e propria del seminario. Sì, io stavo appunto cercando, adesso la trovo, un'altra lettera che mi serviva, perché devo dare conto, credo, di questa strana situazione in cui ci troviamo oggi pomeriggio. Cioè, devo dire che raramente, scusate, ma proprio è un problema che non trovo qua di birra. Ce la trovo io. È una cosa strana, l'esperienza insomma di questi ultimi anni a Trento, all'Istituto Storico del Germanico, per questa esperienza che ho insomma, devo dire che è stata la prima volta che una iniziativa insomma che noi abbiamo messo in cantiere, progettato, ha avuto una risposta così densa di contenuti e anche di peso delle persone che hanno risposto, ecco, come oggi, no? Noi abbiamo mandato una lettera di invito a partecipare al nostro seminario sia a colleghi italiani che a colleghi tedeschi, dicendo che questo seminario, che aveva come parte più importante la relazione del professor Reinhardt, era però un seminario che voleva aprire possibilmente, come ha detto Prodi, una strada di ricerca forse sopra determinati temi che andavano ancora in parte stabiliti meglio. La realtà è che noi avevamo paura di esporci e di presentarci con un progetto già definito di ricerca, e per questa ragione abbiamo inviato gli inviti molto tardi. Cioè, noi abbiamo giocato sopra la speranza che la gente a cui ci rivolgevamo aderisse in spirito alla nostra iniziativa, senza però essere presente in modo troppo ingombrante alla prima esibizione. Perché appunto nella prima edizione forse non sapevamo e non sappiamo ancora bene che cosa dire, che cosa fare. Questo in fondo è il vero stato d'animo in cui noi ci eravamo posti. Questo anche, devo dirlo, per rispetto nei confronti del tema che è stato scelto, che ci sembra un tema affascinante, un tema molto importante, ricco di implicazioni, e forse di fronte al quale ci sentiamo anche un po' noi qui dell'istituto impreparati. Ecco, il risultato è andato al di là delle previsioni, nel senso che abbiamo avuto un numero eccezionale, adesso ne darò atto, ne darò conto, di risposte molto qualificate e sincere, mi pare, di adesione, e contemporaneamente però abbiamo avuto anche naturalmente una serie di disdette, di scuse per non poter partecipare, perché la gente era stata avvisata troppo tardi per poter partecipare. Solo proprio a titolo di informazione, bisogna che diamo a scoperto naturalmente l'altro il bigliettino con su, eccolo qua, non so, questo è l'elenco delle persone che hanno scritto lettere che sono qui dicendo che sono assolutamente interessate a partecipare a un eventuale forum project su tematiche di questo tipo, no? Quindi noi abbiamo il professor Birch da Treveri, la professoressa Anna Maria Battista da Roma, il professor Eberhard Weiss da Monaco, la professoressa Klingenstein da Graz, Volker Selin da Heidelberg, Sbriccoli da Macerata, Bobbio da Torino, Lutz da Monaco, Stollais da Frankfurt, Bickerhoff da Eichstätt, Tenenti da Parigi, Mitterauer da Vienna, Carazzolo da Roma, Legendre da Parigi, Sella da Madison, Tegman da Parigi, Comparato da Perugia, Schida da Treveri, Koselleck da Bielefeld, Imhof da Berna, Dreiser da Bielefeld, Stone da Princeton, da Princeton e Firhaus da Göttingen, da Max Planck. Alcune di queste lettere sono però anche, e io ne ho scelte solo tre, ma sono importanti e le voglio citare perché entrano nel merito della proposta che noi abbiamo fatto. Nonostante che la proposta fosse tutto sommato ambigua o comunque incerta e non precisata, no? Per esempio, è strano che per esempio sia Firhaus che Birch in qualche modo si commisurino subito con il titolo di questo seminario di oggi, che è un titolo che abbiamo preso dalla relazione che il professor Reinhardt aveva proposto di tenere, e cioè con il termine Sozialdisziplinierung. Per esempio Birch scrive dicendo che non può venire, che verrebbe molto volentieri, che verrà un'altra volta, però dice: anche se io non sono perfettamente d'accordo con il concetto di Sozialdisziplinierung come è stato diffuso da Gerhard Oestreich. Quindi abbiamo già questo primo referente. Il termine Sozialdisziplinierung è un termine che non è è stato inventato qui, ma è un termine che viene fuori da una fonte storiografica, credo di poter dire, estremamente qualificata, importante e anche grundlegend, insomma, come è quella di Gerhard Oetreich, questo grosso storico della Verfassung, che è morto qualche anno fa, relativamente, cioè non vecchissimo, insomma, e che ha avuto in Germania, ai miei occhi, il merito di avere proseguito un insegnamento che era stato prima di Otto Hinze e poi di Otto Brunner in parte, e di averlo portato verso i nuovi e più giovani cultori di storia costituzionale che attualmente sono molto attivi in Germania. Però Birch, che è molto attento a questi problemi di storia e storiografia, infatti si è occupato anche di Hinze, eccetera, eccetera, non è d'accordo con l'impiego di questo concetto. Di sociale disciplinio. Ecco, Firhaus, che è un altro personaggio ricco, insomma, nel senso che ha una grossa esperienza, quantomeno di manipolazione, insomma, ecco, dei concetti storiografici, soprattutto per quest'epoca che copre il XVII e il XVIII secolo, di nuovo, in una lunga lettera in cui dichiara la sua disposizione favorevolissima a partecipare all'eventuale Weiterverfolgung des Themas, eccetera, eccetera, e parla di questo Schlagwort sociale disciplinario che viene quindi già definito come Schlagwort, no? come slogan, insomma, come, non so come si può dire meglio, forse, cioè come termine, è come slogan, no? Quindi questo già è anche importante, perché io poi, cioè, la mia idea è che non sia vero, io non sono d'accordo con il termine slogan, no? Io credo che sia invece un termine che nasconde un problema storiografico di fronte al quale si sfugge, ma che invece va acchiappato, anche se punge, insomma, eccetera. Ma comunque lui lo chiama Giacomo e dice appunto che questo termine di sociale disciplinierung nel suo häufig gewordenen Gebrauch, nel suo uso divenuto, nel suo uso diffuso, insomma, è diventato problematic und si presenta come problematic und fragwürdig. Problematico e ambiguo, forse, no? Quindi anche lui se la prende con questo termine. Tuttavia, dice, il damit ursprünglich gemeinte Vorgang, cioè il processo sociale che originariamente veniva inteso con questo termine, è di entscheidende Bedeutung, di importanza decisiva. Quindi anche questo, cioè io adesso uso queste cose scritte perché mi sembra che siano importanti, cioè le considero delle per cercare di mettere a fuoco di che cosa noi ci vogliamo occupare, no? Mi sembra che anche questa lettera di Stegmann, che è questo importante studioso, direi, del dopo Rinascimento, non so come dire, insomma, che sta a Tours, che copre, insomma, l'area che è cronologica almeno, ma anche problematica, che a noi interessa per la Francia, no? Così anche importante collaboratore di quell'altra iniziativa dell'Europa delle Corti, di cui abbiamo qui il presidente nella persona del professor Prodi, ma comunque Stegmann, anche lei, appunto, anche lui dice per questo momento, ricevendo la sua lettera due settimane prima del convegno, c'è per me impossibilità assoluta di partecipare. Peccato che lei mi fa l'amicizia di comunicare i risultati della discussione, in particolare sui temi possibili, quindi per il futuro. Ecco, lui proprio insiste sulla necessità di andare a indagare, appunto, le differenze risultanti dalle strutture costituzionali delle diverse situazioni e in modo particolare anche per quel che riguarda le diverse pratiche giuridiche che si realizzano, si manifestano, si affermano, si sviluppano, insomma, in ciascuna di esse. Ecco, altro problema generale, dice Stegmann, i rapporti tra le forze spirituali e lo Stato. Ecco, questo è detto da un francese in italiano, quindi in modo molto incisivo, per brozzo, se si vuole dire, dal punto di vista letterario, però questo è estremamente importante. Cioè, noi proviamo abituarsi a destrutturare nel nostro modo, qualche volta troppo dotto, troppo sofisticato, di esprimersi, riportiamo i problemi alla loro essenza, alla loro concretezza. Questo è un problema di fondo, no? È un problema di fondo, mi pare. I rapporti tra le forze spirituali e lo Stato. Ecco. Io attaccherei qui, perché per me questo discorso è un discorso in qualche misura anche, come per gli altri amici, insomma, che mi tocca da vicino, nel senso che effettivamente credo che nel campo, almeno della, nell'ambito della storiografia italiana, sia arrivando un momento in cui c'è bisogno di fare i conti con questo problema di cui ci si occupa da una ventina di anni in maniera intensa, che è il problema dello Stato moderno, che è stato, che è tornato di moda una ventina di anni fa e che in questi 20 anni ha avuto davvero una grande attenzione, una grande quantità di indagini originali oppure tradotte, no, dalle altre lingue per quel che riguarda l'Italia. Forse il problema, il tema dello Stato e delle origini dello Stato moderno è stato uno dei temi più più diffusi in questi ultimi 20 anni. Tuttavia noi oggi ci rendiamo conto che c'è un fondo di incomprensione, un fondo di insicurezza nei confronti di un problema che è stato affrontato prevalentemente dal punto di vista del potere, dello Stato come forma di organizzazione del potere, cioè dello Stato come apparato di meccanismi, di procedure, di strumenti per realizzare concretamente l'autorità. Ci rendiamo conto che è stato abbastanza trascurato l'altro aspetto, che è l'aspetto della ricezione di questa autorità, di questa realizzazione dell'autorità, cioè l'aspetto dei destinatari dell'autorità. Ecco, l'aspetto cioè di quella che oggi si chiamerebbe la società, ma che probabilmente per il 500 o il 600, che è l'epoca in cui questi fenomeni prendono origine, non può essere chiamata società. Perché in questo Otto Brunner era stato molto chiaro, aveva detto tante cose così. Cioè, ci rendiamo conto che è necessario almeno chiedersi se questi destinatari, questo popolo, chiamiamolo così, questo insieme di sudditi, questa Unterstandschaft, di cui appunto parlerà Reinhardt, questa Unterstandschaft non avesse a sua volta una qualche disposizione favorevole a essere ordinata da parte dello Stato. Se lo Stato riesce ad affermarsi in tutta Europa in un periodo relativamente breve, in modo relativamente efficiente, forse occorre che i destinatari del potere dello Stato avessero una loro predisposizione a ciò. Ecco, questo è un po' il problema. E questa predisposizione da dove viene? Quali sono i canali che la determinano? In che modo la società, tra virgolette, si organizza per ricevere l'ordine che viene dallo Stato, dal principe, dal monarca? Ecco, questo era veramente un po' il problema che ci interessava. Tanto più che nella letteratura tradizionale disponibile, questo aspetto del problema, cioè appunto la qualità, le caratteristiche dei destinatari di un potere nuovamente organizzato come quello dello Stato moderno, questo problema non è che non fosse affatto studiato, è stato studiato abbondantemente, ma è stato studiato, a me pare almeno, scusate, io dico delle cose che credo, è stato studiato da Fach historien, cioè da storiografie particolari, no? Settoriali, specialistiche, che a mio avviso non sono in grado, proprio per la loro specificità, di dare conto del problema nel suo complesso. Per esempio, per quello che ho visto io preparando quelle poche pagine di cui darò conto domani mattina, per esempio, tutto il problema del comportamento, tutto questa grossa proprio questione del saper vivere, no? Del come comportarsi, che è una questione che attraversa l'intera Europa per due secoli, almeno nel 5 e nel 600, è stata in questi anni, direi in tutto questo secolo, insomma, studiata prevalentemente dal punto di vista della storia della letteratura. Della storia della letteratura. Questi trattati del comportamento sono stati sempre studiati da letterati, i quali hanno cercato di cogliere questo aspetto nuovo di una società che si formava in modo unitario, soprattutto attraverso la lingua, una lingua nazionale che si veniva a fermare, eccetera, eccetera, e che però non sono mai riusciti, a mio avviso, a cogliere anche le implicazioni politiche nel senso di costituzionale, cioè di struttura, no? Che c'erano dentro, dietro a queste affermazioni. Ecco, questo per esempio, questi trattati del comportamento con quale criterio prevalentemente vengono studiati, classificati? Con il criterio del moralismo. I moralisti sono questi pensatori, questi scrittori che vanno da Castiglione in avanti fino a Tommaso, non lo so, sono moralisti. Allora ecco che naturalmente già in questo modo si dà un taglio, a me pare, parziale, insomma, no? Una lettura non convincente, non complessiva a questo fenomeno, a me pare. Un altro aspetto che è quello relativo arrivo una grandissima macchina, relativo alla, una Volvo, relativo alla, secondo me, alle cose di cui parlava Reiner fa poco, cioè alla riforma, no? Alla confessionalizzazione, eccetera. Ecco, questo discorso è un discorso che forse è stato eccessivamente riportato dentro una logica di storia della Chiesa, mentre avrebbe forse bisogno di essere misurato, forgiato in un contatto più stretto con problemi di carattere appunto costituzionale. Ecco, adesso chiudo perché mi accorgo che diventa troppo lungo il mio discorso, però voglio dire, la nostra preoccupazione, aspettativa e speranza era quella appunto di recuperare all'ambito della performance che esiste, della storia delle strutture costituzionali e della politica, anche dei settori che ci sembravano un po' trascurati, un po' lasciati da parte in questo contesto. Inutile che io richiami anche il fatto che, per esempio, su questi temi abbiamo avuto delle prestazioni molto grosse negli ultimi anni. Pensiamo alle prestazioni di Foucault, perché Foucault bisogna riconoscere che è stato quello che ha avuto l'intuizione, la capacità di presentare al pubblico del lettore europeo e mondiale una serie di problemi che si muovono esattamente in questa direzione, anche se a mio avviso la soluzione che dà Foucault è una soluzione non per me non convincente, insomma, però bisogna farsi conto. Ma il modo giusto per fare i conti con Foucault, secondo me, è questo. Cioè è quello di andare a verificare in concreto, nelle diverse situazioni storiche, usando possibilmente il metodo della comparazione, no? Come appunto certi processi sono venuti realizzando. Così come io devo citare un altro grosso personaggio che è Elia, il quale ha studiato tanti anni fa il problema della civilizzazione, insomma come lo chiama lui, ripresentando tra l'altro i suoi risultati anche abbastanza recentemente, a mio avviso ha errato nella maniera opposta rispetto a Foucault, prospettando una Entwicklung troppo stretta e troppo cogente, no? Che determinerebbe il nostro modo di essere di oggi secondo una necessità eccessiva ai miei occhi. Lui parla proprio di Entwicklung Mechanismen, lui parla proprio di una catena, di una catena logica che proprio, ecco. Quindi anche questo secondo me è sbagliato, però abbiamo a che fare con questo tipo di cose. È inutile anche sottolineare che appunto questi problemi oggi sono particolarmente importanti, a mio avviso, ai miei occhi, per il fatto che il problema del comportamento, delle ragioni del comportamento, soprattutto il problema del conformismo, per esempio, cioè del comportamento conforme, il problema del social control, sono problemi basilari, centrali ed estremamente problematici ed estremamente dibattuti nella sociologia teorica contemporanea, nella macro sociologia contemporanea. E per quello che ho capito io, sono problemi attraverso cui si sta in qualche modo anche realizzando una ulteriore riflessione all'interno degli studi sociologici contemporanei, proprio perché siamo oggi forse in un periodo in cui il rapporto tra l'intreccio fra quello che chiamiamo Stato e quello che chiamiamo società ci appare come problematico, come non perfettamente definito e non perfettamente comprensibile. Ecco. La nostra idea era quella di chiedersi se questa difficoltà, se questa ambiguità, se questa contraddizione nei rapporti tra lo Stato e la società che noi registriamo anche ai nostri giorni fosse in qualche misura rintracciabile nelle sue origini anche nel momento iniziale del nostro mondo, del nostro modo di vivere. E abbiamo quindi scelto di utilizzare la presenza del professor Reinhardt, che comunque era scontata, per appunto allargare il campo di interessi e per andare oltre. Oltre non so dove, non so come, ma siamo qui per questo. Io credo che dalla relazione di Reinhardt, dalla discussione che verrà fuori questa sera sulla relazione Reinhardt, dalle comunicazioni che ci saranno domani mattina e dalla discussione che faremo domani pomeriggio, sarà forse possibile individuare qualche problema più specifico di quelli generici che io ho cercato di presentare e che quindi forse entro domani sera sarà possibile fissare una previsione di incontri o di ricerche successive, future, su cui coinvolgere anche gli amici che non hanno potuto essere presenti oggi. Ecco. Ripeto che non voglio appunto rubare in questo il mestiere a Prodi, che è sempre bravissimo nel farlo. Ripeto che noi siamo davvero molto modesti rispetto a questo problema, cioè noi non sappiamo quasi nulla, vogliamo solo vedere se un'ipotesi di lavoro che presentiamo ha un minimo di plausibilità. Ecco. Detto questo, non credo che noi dovremmo arrivare entro domani a dei risultati, dovremo solo arrivare alla convinzione di dover continuare a studiarci sopra. Se arriveremo a questo risultato, secondo me avremo fatto bene il nostro lavoro. Io mi fermerei qui, pure mi fosse esagerato nel troppo lungo, ma semplicemente aggiungo solo una cosa, che è uno dei pochi casi in cui il contenuto del convegno è aumentato invece che diminuire poi man mano, perché a parte che questo sciopero ci porta a questa situazione attuale di scarsa presenza in questo momento, il professor Pudu ha chiesto di fare anche lui un intervento domattina sull'ideologia militare dell'impero di Filippo II, così almeno si mette al telefono, poi il titolo, come elemento di coesione appunto sociale, no? Sì. E qui c'è il testo, lo schema di un intervento che il professor Timo di Berna avrebbe voluto fare e che ha mandato scritto, anche questo è un po' sì, sì, sono già stati dei... ecco, cioè fa vedere accanto alle lettere che manifestano l'intenzione di lavorare con il futuro anche un preciso impegno. Sono riscontri, no? Sì, io non so più di così, davvero. Quindi domattina faremo un po' il concentrato di interventi singoli e poi prenderemo poi la discussione generale, direi, ma il pomeriggio, in modo da chiudere come al solito.